Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Domani sarà l'8 marzo. Tutti oggi, bene o male, cerchiamo di dare un senso a questa giornata. E cercherò per quanto posso di farlo anch'io, come penso sia giusto fare anche io. Si parlerà molto delle donne, molti penseranno che questa è una festa dedicata al fiore della mimosa, perché verranno venduti ai semafori, chiunque ne farà omaggio. Nella giornata di domani si vedranno donne, forse stasera stessa, in gruppetti andare in pizzeria tutte assieme per essere felici che sia la loro festa. Però è una festa che in realtà nasce da un episodio, come sapete, cruento, di morte, di operai morte. Quindi vorrei, se possibile, ricordare alcune donne, che non sono donne così lontane dalle nostre latitudini, dal nostro quotidiano, a quello che vediamo. Anzi, sono donne che vediamo tutti i giorni, ci incrociamo lo sguardo tutti i giorni. Molte stanno anche dentro le nostre case, ci aiutano nel nostro quotidiano. Sono le donne che in realtà, mentre ci stracciamo le vesti per le copertine con le donne scollacciate, mentre diciamo che dobbiamo provvedere al fatto che l'immagine della donna venga vilipesa, perché molto spesso la pubblicità dà immagini di donne non adeguate, sì, è senz'altro giusto, ci dispiace. Ma mentre noi piangiamo sulle nostre donne in mutande, ci sono altre donne che vengono trattate un po' peggio. Vengono uccise. Voi direte, ma come, anche in Italia in questo momento il femminicidio se ne parla sempre, barbaramente stiamo uccidendo donne. Sì, è vero, anche molti italiani stanno barbaramente uccidendo le donne, ma nell'opinione generale, l'opinione comune, chi uccide una donna oggi viene additato come un criminale, come un assassino. Poi ci saranno le attenuanti, poi ci sarà l'opinione pubblica che in fondo dice delitto passionale, tutto quello che volete. Ma se oggi uno prende e ammazza una donna in piazza, viene arrestato, viene messo in galera, poi viene processato. Quindi non è un atto genericamente, pubblicamente e socialmente apprezzabile. Però ci sono dei posti dove invece ammazzare, torturare, infliggere sofferenza a una donna fa parte della legge, di una legge condivisa, e di questo oggi vi voglio parlare. L'altro giorno stavo, come ho detto, cercando delle immagini sull'adulterio, pensate, per commentare, per diciamo mettere l'immagine nel mio blog di un pezzo che avevo scritto su un cialtronissimo sondaggio fatto non so da quale sito che si occupa di scambi di coppie o cose del genere, dove veniva detto che ne so, gli italiani erano i più grandi adulteri d'Europa. E va bene, cerco una foto per mettere la foto dell'adulterio, immaginavo l'uomo nascosto nell'armadio, cielo mio marito, le cose del genere. No, invece vedo che ogni vedeata delle immagini Google che andavo cercando c'era una donna uccisa, o lapidata, o frustata, o decapitata. E queste immagini venivano da alcuni siti o da alcuni video messi su YouTube da paesi islamici, dove per la loro legge, sono persone che, con le quali conviviamo ogni giorno, le donne possono essere uccise. Quindi ho preso tre video esemplificativi, essendo la radio non potendoveli fare vedere, vi faccio sentire soltanto l'audio, si sente molto poco, e ve li descrivo. Il primo video è in Pakistan, una donna lapidata dai talebani. Voi direte, oh, una donna lapidata, cosa si vedrà mai? Si vede. Si vede una grande distesa di sassi, ce l'ho adesso davanti. Vediamo. Questa è una giornalista del telegiornale che sta descrivendo la cosa. Ci sono i talebani in piedi, dei signori vestiti nella loro foggia. Hanno scelto una bella zona sassosa, perché bisogna lapidarla. La donna è interrata, come sempre succede, messa a terra. Ci sono vari video su questi. Voglio essere preciso, in questo caso la donna è semplicemente legata a mani e piedi, appoggiata sui sassi. In molti altri video c'è proprio tutta la cerimonia dell'interramento, la interrano fino alla vita in modo che non si possa muovere. Rimane lì di fronte a delle persone e cominciano a prendere i sassi in mano. Si stanno consultando, alcune donne hanno accompagnato questa donna che è nel vero senso della parola impietrita. E cominciano a prendere i sassi. Prendono i sassi e cominciano a tirarglieli in testa. Sono grossi sassi. Lei si divincola, si dimena, perché non muore subito. Il bello della lapidazione è che non deve morire subito. Stanno con rabbia a distanza di 2 metri tirandogli i sassi addosso. Lei è per terra legata, si dimena, si sbatte, è rassegnata, però spera probabilmente che arrivi velocemente il sasso e la possa finire. E questo è il primo video. Adesso vi faccio vedere Ti faccio vedere il secondo video. Il secondo video viene dalla Siria. È una donna che, non si sa bene perché, è stata comunque strangolata con il suo velo. Il video è in una pubblica piazza, hanno steso un tappeto rosa per terra e c'è gente che gira, folla che gira intorno a questa donna. E quello che mi impressiona è che hanno in mano degli smartphone uguali al mio. Non sono persone diverse da me, lontane, che vengono da un posto selvaggio, lontano e recondito, dove ancora si usa fare questo. No, hanno il mio stesso cellulare, vestiti come sono vestito io, come vestito Valerio Rocchetti, sta dall'altra parte. La donna viene strangolata con un foulard, è rassegnata, non fa nulla, non è nemmeno legata, è inginocchiata. Sta lì ferma e spera che probabilmente faccia presto il suo boia. È un uomo che la prende, le gira questo foulard intorno al collo e comincia a stringere. Lei sembra quasi una bambola di pezza, si piega sul fianco, si stende su questo tappeto, è immobile. La cosa che mi sorprende è che ha le mani libere, non legate, e nemmeno prova a muoverle. Lui pian piano stringe, stringe, stringe, tutto intorno è con gli smartphone che stanno facendo il filmino, finché con una certa grazia, devo dire, rispetto probabilmente, perché quello è un corpo tentatore dal quale tenersi distante, poi l'adagia. E l'ultimo della folla di quella piazza fa l'ultimo scatto con il suo smartphone e la donna lì, adagiata sul tappeto rosa, strangolata, tutto sarà durato un minuto e mezzo. Il terzo video, voi direte, il terzo video è stata non uccisa, è una donna che viene frustata in Sudan, in una piazza, perché portava i pantaloni. Sentite attentamente, qui si sente veramente, qui vi rendete conto, questa potrebbe essere una mia descrizione, poi vi metto il link, ve li andate a vedere se volete. Questa donna è in piazza, una piazza come potrebbe essere Piazza Indipendenza qua sotto, una qualsiasi piazza di una città del Sudan, non c'è nemmeno lo stigma del luogo esotico, è uguale alle nostre piazze. Io lavoro qua vicino alla stazione Termini, c'è un quartiere molto frequentato da donne velate e da uomini in abito tradizionale di paese islamico, e quindi mi sembra di stare qua sotto. La donna aveva messo i pantaloni e quindi deve essere frustata. Gli uomini sono tutti uomini e stanno tutti attorno e guardano, tutti lì ben vestiti, in piedi, tranquilli. Il boia è un soldato, un militare, ha una specie di divisa. La donna si guarda intorno e dice: ma perché mi fai questo? La frusta, guardate, la frusta è un attrezzo che è di 10 cm di diametro, è quasi un bastone. Lei è inginocchiata, è vestita tutta coperta, velata, col velo, e c'è questo soldato vigliacco che con la frusta la sta frustando. Intanto comincia dalle ginocchia, le inginocchiate in basso, lei arretra, si divincola, è tutta coperta di questo abito nero. Dietro c'è un'automobile che circola per le nostre strade, un'automobile occidentale. Tutti guardano intorno, guardano, stanno zitti, qualcuno ridacchia. Lei urla perché fanno male, sono frustate, sono bastonate, prendetevele voi le frustate. Lei si alza in piedi, si appoggia un attimo al bagagliaio della macchina, cerca di coprirsi con le mani. Ci sono tanti uomini intorno, guardano tutti, ma guardano come se fosse uno spettacolo qualsiasi, senza nessun problema. E lui insiste, pian piano le gira intorno, le fa prendere fiato un attimo. Lei cerca di coprirsi con le mani, ma la frustata fa male anche sulle mani. Adesso la sta colpendo in faccia. Lei cerca di prendere la frusta con le mani e arriva un altro con un'altra frusta. Lei aveva preso la frusta con le mani, arriva un altro, bello grosso, soldato, e gli dà delle belle frustate. Ora, frustate del genere significa condannare una persona a morte, non è che si danno così per dare una punizione. Ecco, questo accade con le donne. Io voglio dire, non voglio relativizzare, non voglio assolutamente fare delle campagne d'odio, ma riflettete, ci sono dei posti del mondo, di persone che vedete per strada, con cui abbiamo rapporti diplomatici, rapporti commerciali, posti dove ci sono anche belle spiagge, dove andiamo in vacanza, donne che vediamo per le nostre strade, dove questo fanno alle donne. Questo non vuole essere un richiamo all'odio o alla discriminazione, vuole essere un richiamo alla riflessione. Suad Sbai, buongiorno. Buongiorno. È una cittadina italiana dall'81, di origine marocchina, una giornalista, una politica italiana, una professoressa universitaria. È una donna che si batte appunto perché di fronte a queste cose non siamo indifferenti, almeno dobbiamo sapere che ci sono. Questi tre episodi che ho preso da YouTube, che a me hanno colpito proprio perché sono contigue a noi, fanno parte di noi. Ci sono persone vestite come noi, che fanno le stesse nostre cose, con cui abbiamo contatti quotidiani. È stato sbagliato, esagerato, secondo te, Suad, aprire il giorno dedicato alla festa della donna ricordando che alcune donne sono frustate, uccise, massacrate, strangolate, nel consenso generale e nella regola della legge, non come atti criminali e discriminati? Ma lei è emozionata oggi, veramente, perché sono 10 anni, sono 15 quasi, che mi occupo solo di queste donne. Mi occupo di queste donne massacrate, queste donne trucidate, queste donne. Lei prima parlava delle pietre gettate. La pietra non deve essere né grossa né piccola, deve essere media, la morte deve essere lenta. Lei deve scrivere subito un libro, perché come veramente ha posto proprio anche questo tema, mi fa molto felice che, ecco, qualcuno comincia a rendersi conto del non diritti umani proprio. Suad, basta che ognuno apra il suo smartphone e cerchi donna lapidata, ne vede quante ne vuole. Appunto. Non è un mistero. Un silenzio assordante. Lei come l'ha raccontata così veramente è bellissimo, però io urlo, scrivo, richiamo proprio anche l'attenzione, cerco di parlare di quelle donne che vivono in una maniera peggio delle bestie, delle donne pakistane non se ne parla, delle donne pakistane o le donne afghane nessuno ne parla neanche più, cioè diventata anche quasi una normalità massacrare quelle donne perché tanto fa parte della loro cultura, e non è vero, non fa parte della cultura. Oggi devo dire una cosa, Suad, ci fermiamo poi un istante a dare gli avvisi per il traffico. Mi dispiace, ho saputo questa mattina che è morta una mia cara amica, Elvira Banotti, una donna che si occupava molto di femminismo, era estremista, sì. La prendevano in giro, anche lei era di origine nordafricana, mi pare. E lei ha fatto battaglie fortissime contro questa idea, ad esempio, che l'infibulazione fosse una cosa da relativizzare. Perché? Perché tutte le donne del PC allora l'attaccavano, dicevano, ma no, bisogna avere rispetto alle culture. Cioè no, infibulare una donna è un atto di tortura, è un atto di massacro. Non possiamo far finta che nella loro cultura questo ha un senso. Non deve avere senso tagliare la vagina di una donna e cucirla solo per gli uomini. Hanno l'unica maniera di fermare quel luogo terrificante per loro, che non riescono a gestire. Quelli non sono uomini. Melog, cronache meridiane. Abbiamo fatto sentire in diretta i video su YouTube di alcuni atti di violenza, di tortura, di omicidio nei confronti di donne rispettati dalla legge. Sono video trovati su YouTube, normalissimi, banalissimi, alcuni anche datati. Una donna lapidata dai talebani in Pakistan, una donna strangolata in Siria in piazza con il suo velo e gli altri prendendo con il loro smartphone, e una donna frustata in Sudan perché non aveva i pantaloni, nella normale accettazione di questi fatti. Pietro, buongiorno. Veloce. Pietro? Pronto? Sì. Veloce però, sono in macchina, mi fermo perché la voce va e viene. Allora, ho acceso 5 minuti fa e le dico che mi ha girato il per sentire queste cose. Cioè, solo ad ascoltare mi vedevo l'immagine. Sto diventando razzista. No, non bisogna essere razzisti, è sbagliatissimo. No, allora, no, mi permetta. Cercavamo un ministero di immigrazione dove questi signori vengono qui, siamo noi che dobbiamo intervenire. Non so, onora noi. Guardi, se avessi avuto un bastone, essere in mezzo a quella gente, andavo, mi facevo massare, ma li legnavo io. Sì, ma guardi, facendo così si diventa come loro. L'unico principio Pietro, io non sono per la pena di morte, ma lo figuriamoci oggi. No, ripeto, quando mi sento mi scusi un vendola che una radio dove dice i musulmani sono ben accetti, sono ben accetti. Io quando vado in Francia però parlo francese e mi adatto alla legge. Queste cose, tutte queste femministe, queste donne come la pace, dove cavolo sono? È questo che mi dice. Ecco, quest'ultima frase è quella che dava il senso alla missione. Non voglio relativizzare, non voglio assolutamente fare battaglie di religione, voglio opporre con il mio punto di vista, che è laico, è sorridente, è aperto comunque a tutte le culture, tutti i pensieri, il fatto che non ci rompete le scatole domani con le copertine dei giornali, con le donne scollacciate, con le mutande, con le veline. Se avete qualcosa da dire sulle donne, dite magari su questo. Mustafa, buongiorno. Sì, Mustafa, buongiorno. Mustafa, prego. No, io volevo dire che praticamente queste cose che vengono dette non riguardano una religione, ma riguardano solo l'ignoranza degli uomini. Certo, ma sono d'accordo, Però la religione diventa molte volte il pretesto per avallare questo. Bravo, diventa il pretesto per avere consenso. Ma lei è Mustafa, è un musulmano illuminato e capisce il vero senso di una fede religiosa, che una fede religiosa non può, anche nella Bibbia c'è scritto delle donne lapidate, ma oggi nessun cristiano passerebbe l'idea che una donna vada lapidata. Purtroppo nell'ignoranza, nella sottocultura esiste questo, dirlo mi sembra sia una cosa giusta. Esatto, io volevo dirlo così almeno la gente che ci ascolta lo sa, che poi di solito si generalizza tutto quanto, quindi uno vede per esempio musulmani già cura la pelle delle donne, quelle dei maltratti. Ecco, questi episodi avvengono, diciamo, in alcune aree, diciamo, del mondo in cui la religione diventa l'interpretazione sbagliata, errata, vigliacca, strumentale, ignorante della religione. Una religione è rispettabile per chi ha una fede, ma non può diventare il motivo per creare atti così vigliacchi verso esseri umani. Diventa il veicolo. Asnain, buongiorno. Sì, buongiorno. Cittadino pakistano. No, sì, buongiorno. Sì. Volevo, sì, ero d'accordo col presidente, il ragazzo che ha parlato appena adesso, sì. Che praticamente non è una cosa che riguarda l'Islam, ma è proprio l'ignoranza di una cultura. E poi io sono cittadino pakistano, posso confermare che queste cose nel nostro paese ultimamente stanno accadendo, però solo in una parte del paese, non in tutto il paese. E comunque se voi andate a fare un giro a Karachi, a Islamabad, Lahore, vedete che le donne girano liberamente e tranquillamente con le loro macchine e con tutte le loro cose. E mi è sembrato strano che si accusasse tutto un paese, comunque tutto. Ma io mi ho detto tutto il paese. Ho detto dei video che sono su. Non accuso tutto un popolo. Dico, lo trovo vigliacco che si sono nei posti dove ancora. Non lei, il telescontatore che ha parlato prima, Pietro, credo. Ma infatti a Pietro gli ho detto di stare tranquillo. Secondo me è esagerato, perché basta andare a leggere comunque le regole dell'Islam, ci capisci che non c'entra niente l'Islam. Sì, però anche noi ci siamo molto giustificati su questo, abbiamo detto sì, abbiamo in Italia si tagliavano i testicoli ai bambini fino a un secolo fa per fargli fare le voci bianche e nessuno si scandalizzava, ci sentivamo civilizzati. Non è mai troppo, diciamo, il livello di attenzione che si fa sui limiti che molte volte si superano in nome di qualcosa che viene chiamato religione, senso del metafisico, è rispettabile, una dimensione molto rispettabile dell'esistenza, però non può giustificare quello. Torno alla collega Suad Sbai, dico collega perché sei giornalista, certo. Mi sono rubato il tu, però se vuoi le do del lei. Sì. Allora, andiamo avanti. Come si esce? Innanzitutto da questa idea che uno ha scrupolo di dire queste cose e paura di essere considerato un discriminatore. Poi mi riporti sul nostro paese, nella nostra Italia, tutto quello di cui abbiamo parlato ancora come paesi lontani. Cosa accade da noi? Intanto, signor Pietro, è la rabbia, non è razzismo, perché in Italia pochi razzisti, sto per parlare di razzismo mi sembra un po' troppo, è la rabbia che fa diventare un pochino non razzisti ma proprio rabbiosi, ma non è un razzismo, che è espresso sicuramente male. Nessuno ha detto che tutto il mondo musulmano, non è l'Islam, sono i musulmani radicali, sono gli estremisti, sono i salafiti che hanno fatto la loro religione la violenza. Guardi, nel nostro paese succede la stessa cosa. Rashida Radi è morta un anno fa, massacrata, sono morte 17 donne in un anno, massacrate, chiuse in casa, segregate. Qui in Italia? In Italia non possono uscire. Lei ha incontrato mai una donna in un cinema, in un ristorante? velata, che mangia tranquilla, con non escono, non partecipano alla vita sociale nostra, sono segregate, sono 10, non me ne vergogno di dirlo, qualcuno vuole sempre strumentalizzare, ah, parlate di Islam, non me ne importa niente, quello non è Islam, l'Islam radicale, Islam estremista, Islam, chiamatelo come vi pare, però io non voglio neanche giustificare, se sono dei delinquenti, perché io chiamo, sono dei violenti, bisogna dirlo a alta voce, senza problemi. Se qualcuno dice parli dell'Islam, ma nell'Islam ci sono le persone brave, bravissime, ci sono dei delinquenti che usano la religione per i loro scopi, per mettere le donne sotto proprio, ma massacrate. Ci sono donne che non vivono, abbiamo preso una donna l'altra qualche tempo fa, è 3 anni che non ha messo i piedi fuori casa. E dove stava? In Italia? Che ci ha detto, in Italia dove? In Italia, Bologna. 3 anni chiusa dentro casa. 3 anni non ha mai messo i piedi fuori, casa rinchiusa, l'abbiamo tirata fuori con i carabinieri, la prima cosa che ci ha detto portatemi in Marocco perché almeno lì sono protetta, perché qui manca la rete familiare, la rete amicale, la rete, manca una rete perché per queste donne arrivate qui nessuno ha pensato a loro, nessuno, perché poi è anche un danno per la società italiana, perché sono migliaia e migliaia di donne che non fa nulla, segregata. Ma se si ammalano chi le cura? Ti faccio un esempio. Le donne che non hanno mai visto un medico, vanno per un dolore alla pancia, poi partoriscono. Cioè, se sono delle cose allucinanti. Ma vengono ancora infibulate le donne in Italia? Per fortuna con la legge del 2007 che qualcuno non ha voluto firmare. Come chi, diceva chi non l'ha firmata? Chi non l'ha firmata? Non hanno firmato alcune donne di un certo pensiero, dice che sono le loro tradizioni. Quella non è una tradizione, quella è malvagità. E soprattutto nel nostro territorio e neanche un altro che bisogna combattere. Senti, Suade, noi abbiamo pochissimo tempo, nel senso, ti posso richiamare, ne parliamo con più calma, perché mi dispiace interromperti, oggi era soltanto per dare un piccolo schiaffo proprio a quelle donne che dicono in nome del relativismo culturale lasciamole fare, no, anche in nome di Elvira Banotti che è morta, era un'amica mia, a lunedì.